cucù. Non capio, non capio. Non parlo francese. Avanti. Anda bene, anda bene. Non si sento male però. Basso, basso, chi sei? Già arrivato, l'ho portato. Ho capito. Sì, basso di radio. Ho capito però chi sei. Chi è che sei? Ah, Gianni doppio room, basso sì, Gianni, buonasera. Arrivi basso. Latte dolce. Strano, bu. Ma poi ci arriva tutti forte, bu. Ah, che arrivo Gianni va bene. Gio Maria lo stesso. E boh, io sono più in alto forse loro, io sono in basso. Io sono terra terra. Bu, forse. Io sono stato portato prima del studio polografico. Ah, ecco, tu sei con i 500 milliwatt, quindi con i giocattolini. Esatto. Eia. No, anch'io sto usando un portatile, un giocattolo. Che marca? E questo è della Schaffel. Poco la cosa. Ma perché non c'è il cassone? Mi ascolti bene, sei col gommino. Sì, c'è un gommino piccolo io. Cosa c'hai? Ho capito. Io no, sono col gommino stesso, ma è un gommone. Ah, eccoci. Capito, è un gommino ma è un gommone. Vabbè, sempre di gomma, Il suo originale che c'ha la carichetta sotto e poi lo stilo. Ah, ecco. E quanti watt c'ha il tuo? 5 watt. Quanti? 5 watt non li dà neanche per sogno. Ma parati, queste qui sono frequenti, no? Tanto che sono un piccolo stato, io posso scolare 27. Senza ombra di dubbio. Questi se trovano un ostacolo tornano indietro. E allora? È giusto così per giocare. Che l'ho preso, infatti si dice, prendere uno serio, insomma, me la tanto per giocare, io la 27 come frequenza. Ehi, ma il 27 c'è dove non c'è nessuno, allora si chiacchiera qua. E appunto, l'ho preso per quello, per giocare. Ehi, capito, giocare, parlare, passare l'ora. E allora? Adesso stai arrivando più forte, Bacchisio, cosa hai fatto? Nulla, ce l'avevo in mano e adesso l'ho appoggiato sul tavolo. Adesso stai arrivando più forte, mi senti meglio adesso? Adesso ti sento meglio. Ne avevi più forte anche tu adesso, deve essere trovata la posizione giusta. Infatti, devi trovare la posizione giusta, oppure mettere un antenino esterno. Ma non si può mettere qua, l'antenna è fissa questa, non si può smontare l'antenna mia. Come non si può mettere? Non c'è un terrazzino. Sì, ma nell'apparato, nel portatile, è fissa l'antenna, non svizza, capisci? Ah, quella fissa c'hai, no, questa si svita. No, è fissa questa qua. Si svita. E basta prendere uno della Baofeng, ai cinesi, 19 euro. E quelli sono 5 watt. Perché i cinesi che la stanno vendendo a Parì? È cinese, non ci è mai stato. Dove? Quello di coso, come si chiama, aspetta un po'. Vicino al supermercato. Non mi ricordo come cavolo si chiama quel cinese lì. Il palazzo giallo. Uraia! Lì ci sono. Ah. Vabbè. Quanto li prendo? 19 euro l'altra volta costava, ma queste sono le volte non ci passa a vedere, 19. Se invece li prendi in coppia mi sembra fare le 35. A fianco di Salta, buonasera. Buonasera Marino. Contatto, a Vasilio, mi chiamate, ma mi cellulare non ho cambiato, ero tutto in macchina. Avanti, va chi? Ascoltato, va chi? Perché noi prendi e parli, no? Tu sei messo lì a frequenza. Marino, io ti ho ascoltato, dove sei? In macchina al semaforo. Io? Eia. Oh, io sono a casa adesso, no, sono a casa. Ma chi dove? Fuori casa? No, no, a casa, però Bacchiglio mi arriva più basso di te, tu mi arrivi più forte. Perché io sono sempre forte già, sono sempre forte. Bacchiglio. Chi è questo che è più forte? Buonasera, avanti. Era ora, ho visto le chiamate, ma non... ho visto poco poco anzi le chiamate, Bacchiglio. Stamattina stavo lavorando, ma il cellulare io ci ho buttato in macchina, avanti. Ah, per quello è. Per quello che non ti ho sentito, capio, l'ho lasciato lì. Allora, quale sta utilizzando l'apparecchio adesso? Sto usando il fratello del tuo. Ah, ok, bene, bene. Avanti già. Solo io sono piccolo e meno, dai, con questo apparecchio. Io ho l'Intec 50-50, che è omologato. Invece con milliwatt, con 500 milliwatt mi pare. E guarda, qui arrivi abbastanza forte, più forte di Bacchiglio arrivi, logicamente tu sei più in alto, ma arrivi abbastanza bene, la tua votazione è chiarissima, avanti. Magari ho trovato il varco, capito? C'è un varco tra due palazzi che va direttamente dalla parte di casa tua. E figurati, è come, per esempio, essere con una calzata, come Luca del Monte, quando è giù alla strada di Pisa. Se cavolo dove si mette, non lo sento, si mette verso... quasi in fronte a Graziano e arriva a bomba qua. Perché basta muoverlo di un millesimo, guarda. Bacchiglio prima lo sentivo basso, l'ha mossa per appena e lo sentivo molto più forte. Figurati, avanti Bacchiglio. Ehi, infatti adesso Gianni sta arrivando forte. Adesso è abbastanza chiaro, forte. E l'ha messo sotto aceto pochi minuti fa. E cosa hai fatto? Solo perché hai spostato l'apparecchio? Esatto. Invece quell'antenna nuova è abbastanza forte lo stesso, io l'ho già. Bella quell'antenna, mi stanno delle grosse soddisfazioni. Anche due segnali in più. Esatto, anche qua. Si stava ascoltando quella sera fuori, so, c'avevo gente, non mi sono permesso di entrare, però abbassato. Comunque arrivi abbastanza forte, diciamo, dai. Ce l'ho pagata quell'antenna, l'ho trovata al prezzo più basso, costa... intorno alle 168 e cose, l'ho trovata a 148, però ho pagato le spese di spedizione, ho pagato 170 euro in tutto. Vabbè, ma si veda, però almeno adesso si è a posto, dai, quella lì ormai, guarda, anch'io avevo un'antenna, mi ha dato Bacchiglio, tipo quella di, come si chiama, tipo la tua. L'avevo staccata perché le guardassi mi invadivano il gasotto e poi la notte fischiavano ancora pazzesca. Incominciava a fischiare tipo quello che faceva Giulio, la stessa cosa, fischiava. Se lo sentiva mia figlia giù al primo piano, figurati il fischio, era troppo forte. Ma adesso ne ho un'altra diversa, questa c'ha 8, è alta come quella lì, però c'ha 8 radiali. E, diciamo è quasi una stella. Bene, avanti, va chi? Sto cercando il raccordo, posso trovarlo. Voglio provare l'altro e non trovo il raccordo, ma lì. Centrali bassi, centrali, sempre uno di stazionari, massimo, negli altri canali, dei canali normali quasi zero. Io, no, va benissimo già, hai fatto non bene, benissimo hai fatto, ottimo, meglio così, là. Siamo contenti, avanti, va chi? Ehi, oggi mi ho preso la briga di misurare stazionarie in varie antenne, Marie. Quella che mi ha dato mio cugino, uno è 7, uno 17, le altre 1-0-0. La stessa differenza che c'è, purtroppo è così. Ti volevo dire una cosa già, è quella che ti ha dato Franca, non l'hai piazzata, no, già. No, ce l'ho sempre conservato, deve venire a riprendersela perché non è piatto sul tetto. E perché non hai approfittato, scusa, io avevo approfittato. Una volta che c'è qualcosa mi avevo piazzata sotto, io per esempio, vabbè, io sono in campagna, faccio quello che voglio, a casa mia faccio quello che mi piace, a casa mia non disturbo a nessuno, diciamo avremmo anche reso cosa, ma sono abbastanza, sono dei confidenti abbastanza in gamba. Io mi ho messo sotto quel palo, sotto il palo, ho messo una staffa di parabolo e mi ho messo l'antenna, la X30 ho messo, che fa V e U, e va benissimo. So adesso in questo momento sto utilizzando la direttiva, avanti. Ehi, ma comunque quell'antenna lì deve avere qualcosa, perché io l'ho piazzata sul balcone, l'ho provata con l'apparecchio che mi hanno prestato e praticamente non usciva nulla, proprio niente, non mi sentiva nessuno. Tu mi dirai, ci sono ostacoli, però almeno una persona mi deve sentire, nessuno mi sentiva, deve avere qualche problema. Sì, magari voleva controllata. Questa che sto scendendo io in questo momento è una direttiva che mi ha regalato Giulio. Giulio non la sta utilizzando, ma ha chiamato e me l'ha regalata. Sì, un'antenna di televisione mio. Ho già, è un'antenna di televisione. Semplice. E va benissimo, l'ho messa sopra l'antenna della TV, l'ho messa e va bene. E messa così proprio a me ne frega, due staffe puntate fra Monteoro e Sassa, figurati. Bene, Mela, avanti Bacchisio. Ehi, aspettami lì che vado su e metto la direttiva a vedere un po' se Gianni mi ascolta. Gianni non dovrebbe ascoltarmi più. Da te dove arriva la bomba, aspetta che vado a piazzarla. Direttiva, gente, io. Ehi, direttive autocostruite. Questa qui è semplice, ma va benissimo. Va abbastanza bene, guarda io sono qua sotto, adesso sono sotto, ho l'appartamento sotto, il seminterrato e sono sotto. Quando l'ho prima piazzata, l'ho appoggiata in un appartamento sopra, in mansarda, appoggiata sul divano, e usciva, mi sentiva Claudio, mi sentiva Antonello, è forte, va benissimo, va. È una cazzata. E come le regolate le stazionali? Ma guarda, non ti dico balle, io ho piazzato il basso, mi va benissimo, non è che regolate, anzi balle mie, una volta è sceso Bacchisio con lo strumento suo, che fa VU, e stazionale no, quasi zero aveva, figurati, quasi zero. È una cosa, ma prego, già sono ascolto, non preoccuparti. Gianni, arrivo subito che mi hanno chiamato. Ehi, io! Bacchisio, Gianni, attenzione Gianni, Bacchisio, Bacchisio, Marino, ciao Luca, buongiorno, ben alzato, ciao Bacchisio, Gianni, sì, io mi sono un po' allontanato, tutto a posto già, Bacchisio, lo senta Marino, io non lo sento, buonasera. Ehi, ma sai che lui non ti sente, a te buonasera, anche a te buonasera Marino, ciao Gianni, ci sei? Gianni doppio root, ci sei? Sì, si è allontanato perché ha avuto una bassa, Luca. Ha avuto una bassa, allontanato. Oh, Bacchisio, non ti sento, Oh, Bacchi, non ti sente, Marino? Ma è forse il sollo, buonasera a tutti. Se cammini lì, ti butto un penacello, se sorge. Si sente con me, ci vai. Con un'unica antenna, così non è problema, di volta cambia. Ciao Ottone, avanti. Oh, signor Bacchi, ma ti sento o non ti sento? Oh, non vedete se c'è a me. Cosa ti sta succedendo però? Attenzione, signor Marino. Dimmi, caro, fiorellino, dimmi. Ma l'ascolti a Bacchisio. Ho detto che non l'ascolto, te l'ha detto anche Luca, non ascolto nulla, neanche il segnale arriva qua. Senta, signor Bacchi, ha detto attrezzati, ha detto che non ti ascolta. A me arriva frusciato Bacchisio, bravo, dovrebbe arrivare potente, siamo a due passi. Senta che c'ha l'antenna sul tavolo, t'ha detto. Sì, io mi ho aggiunto la stufa a pellet l'antenna. Esagerato, mi non esagerà. Allora, così scalda, no? C'è bisogno che la faccia scaldare io. Luilus. Forse ti si piglia a vugura, stufa e l'antenna. È vero. Andiamo, andiamo, do. Bobo. Infatti. Bisogna ciappare lì. Un tubo e poi vi tirai in alto. Se tu vuoi buono il tiro in il cuoio. No, io già mi sei mai compreso, dicevo di tenere. Bisogna pulire l'antenna un tubo e poi vi tirai in alto l'antenna. Antenna di chi? Il Bacchisio. Ah, Angelo si chiamava. Insieme a qualche bello, apri di lì adesso un po' garito, invece di tiri da fatti. Oh Fiorino, guarda, non ne voglio, mi sento male oggi, eh. Oggi mi sento molto male. Cosa ti è entrato? Un tubo. Un tubo. Andiamo a la bocca di Nescido. Allora? Andiamo a andiamo, dai, dai. E allora, signor Bacchi? Ecco, mi sono rientrato. No, tu non sei signor Bacchisio. La voce è troppo diversa. E signor Gianni, Tore, signor Gianni. Pagliso, eh. Buonasera, Gianni. Buonasera, io ero già in ruota poco fa, solo che mi hanno telefonato e era al telefono. Là. Sono rientrato. Ben entrati a tutti quanti quelli che sono entrati e buonasera, avanti. È già entrato Luca e Tore Squalo. E adesso io esco fuori da questa stanza e prendo il portatile, trovo già quello che ti sta parlando poc'anzi Bacchisio, e mi dici se mi ascolti. Eia eia, avanti Tore Squalo. Schiatta che andiamo bene, andiamo, bubu, non vi si può di nuda a voi, no? E Lucrezia, dov'è? Non lo so dove sia andata a finire. Luca! Sono qua, Gianna, Nannini, dimmi tutto. Ui, è questa voce possente che c'ha, aiuti. Cosa devo tu? Che cosa è in gola? Cosa c'ho? La voce possente. Mi ascolti, Gianni. Cos'è che hai detto già, la voce possente? Il più grossa ce l'hai lì, da corposa. E cosa ne so già, non lo so. Meglio così, ma... Cosa hai fatto, cosa hai fatto? Gianni, ascolti. Eia. Niente, già ho fatto, cosa ho fatto? Ascolto. Sì, ho questa qui sto scendendo, quella poi che ti sta parlando Bacchisio, sì, dai cinesi. E tu Luca, lo ascolti? Luca, lo ascolti, avanti. Luca, non lo sento. No, negativo, non lo sento. Luca, non ascolta. Ah, ci sono io. Attento, Luca. Sì, attento sono. Un attimino, aspetta che sta chiamando Bacchisio. Avanti, Bacchi. Ehi, a toi, mi ascolti? Ascoltiamo Bacchisio adesso. Chi ti ascolta Marino, ti ascolta. Signor Bacchi. Signor Bacchisio. Ehi, ehi, no, non ci sono. Come sei, sopra il tavolo? Sono venuto dentro e c'ho freddo fuori. Già, ascoltate, confortate, grazie. Comunque ti ascolto, vai. E tu lì già ci combatti, come c'è il Bacchisio? Quelli due dei cinesi, proprio... Grazie, poi va bene come... Ehi, ehi, ehi, ti ascolto, che va bene. Poi non è che non te ne aspetta, perché altrimenti qua compri il colostino e la stazione infine. E va benissimo. E ci ha combatti, eh? Ma Baufeg che sono. Esatto, esatto. E ti va a comprare lì nei posti e ne paghi una barca di sud. Diciamo vero questa qua, diciamo vero, figurati. Ok, adesso tu fai che io sono l'ottava e sono fuori, sono tutto basso ancora, figurati. Ok, adesso mi vengo dentro, vai. Cappa, cappa, vai, vai, tranquillo. Avanti, Bacchisio. Bacchisio, no, vuol dire c'è qualcosa che non funziona, andiamo bene. Ti prendi già. Ehi, ehi. Ehi, a voi, adesso vedi, a vedere prima, c'è gente che li ha comprati, li ha pagati anche 31, 39 euro, qui li ha pagati. Venga, io, quello... L'888 del Buffing, l'ha già pagato 11 euro. L'ho fatto arrivare da fuori, lo... E gli ho messo le frequenze io, perché lì c'erano frequenze diverse. Ah, ci ha pagato. E quanti watt c'ha quello? 5 watt c'ha. Va bene, adesso addirittura li hanno fatti a 18 watt, se mi immagini. Sì, ma io sono si buono idratà, non è cosa a noi. Non puoi idrattare manco chi sta a 5 watt, io sto scendo con 500 mila. Quello che ho io si può adoperare, perché ha 8 canali. Deve essere omologato, ci deve essere, omologazione c'è per poterlo usare. Omologazione c'è scritto dietro, omologazione c'è. E allora va bene. E dove l'hai comprato tu quello lì? Da fuori internet l'ho preso, da fuori l'ho preso, 11,99 euro. Ma 5 watt è fuori legge. Non è neanche 5 watt, 4 watt, 4 watt, 4 watt e mezzo. Non devono superare 500 mili. Se dai rettangoli se no non potremmo uscire con nulla. Io sono qui c'è di convincio, con l'Intec 50-50. 500 mili. Ma no, non ce la fai, secondo dove ti trovi no, non esci nemmanco. Tu? Sì, io Mario non lo sento, vabbè, ho cambiato postazione. Non lo sento Mario, non lo sento. Io ti sento male adesso Luca, o ti senti bene? Meglio mi senti Mario. Adesso sì, poc'anzi no. Bene, ti stavo dicendo Gianni, un giorno ero insieme a una persona giù dai cinesi, io in macchina, e c'avevo questo qua. O sai, quell'amico mio era all'interno, io parlavo e mi sentiva negli apparecchi che usano loro all'interno, mi sentivo, che anche loro lo utilizzano all'interno già. Ah, e che frequenza usano loro? Qua ce l'ho segnato in un pezzo di carta qua e adesso sono al buio qua, non riesco. Sempre questa qua con diversa frequenza, capito? Ah, non capisco. E loro li usano per chiamare i commessi, eccetera, eccetera. Li ho visti usando, infatti, magari sono in commercio. Esatto, come tu fai al brico nei magazzini, dietro a Canica, lo stesso, utilizzano questi qua anche loro. Ah, c'era l'altro giorno, mi sono comprato un paio di pantaloni. C'era l'altro giorno lì. Non l'ho girato, dai, e sono comprato quei pantaloni che mi servivano perché mi servivano urgenti per fare dei lavori, perché non mi volevo rovinare gli altri quando si è passato. Ok, questi qua li trovi a fianco a Gisalfa, capito? Quei cinesi a fianco a Gisalfa. Bene, vediamo se Bacchisio è entrato. Bacchisio, pressione gigante. Sì, arrivi Marino. Mi ascolti? Mi ascolto basso, Bacchisio, avanti. Io sono sul terrazzo, sto armeggiando, cercando cavi al buio. C'è un calcio. No, nulla, tutto è disturbato, ma chi non ti ascolta adesso, eh? Avanti, Tore. Qua se ascolti tu, Bacchisio. Io sì che l'ascolto. Mi sa che per voi è troppo basso. Ma chi se è troppo basso per loro? Io ti ho detto, sono sul terrazzo armeggiando con i cavi, adesso vado a vedere giù. No, adesso va benissimo, Bacchisio. Adesso ti sento anche io. Ma sono sul terrazzo però. Sono col portone sul terrazzo, sto guardando i cavi, ma c'è un casino lì, non so che cavo vedi. E tu c'hai una centrale qua terrazzo. Una centrale, avanti Luca. Luca sta mangiando, avanti già. Io. Aspetta che però siamo sui 27, dai, 27 la fine. Ok, Tore avanti. Sì, certo, andiamo dove andiamo oggi. Santo benedetto. E come mai? Come ti mai? Cosa vuoi che ci dica? Oggi è tutto storto sembra, per Bacchisio, non per me. Lo deve fare la luce quel controllo dei capi. Adesso non vede nulla logicamente. Alla luce, Bacchisio, domani sera in campagna non scendi, ti controlli i capi. Dopo pranzo che c'è luce e ti sistemi tutto Bacchisio. Vedi se mi ascolti adesso Marino. Ti ascolto, basso, però c'è molto correme, va chi? Qui adesso ti salvato, visto questa è la Gran Pre piccolina, la sorella della tua. E c'è il piede di salvato. Ah, per quello è. Già ti sento, ma c'è il correme più che ti copre, capito? Basso, però stai uscendo, dai. Tu hai trovato il piede staccato in poco parole, dai. Sì, io qui l'ho staccato. Adesso ce l'ho spinto così con le mani, ma non l'ho fatto bene. Adesso ci rimetto un chiodo a vedere un po'. Tore, riprendi. Adesso sei uscito forte. Signor Bacchisio, se voi domani sera a una certa ora vengo io e trovo Zueumi. Non c'è problema per quello, Tore, solo che al buio non si vede un H. Capito? Bisogna farlo di giorno. Sì, vengo lì a Grabo che venga a Ridre. Ridre sono in campagna io, non so con i nomi. Già lo sistema quando salgo domani sera. tanto è tagliare e saldare, poi basta, 10 minuti di lavoro. Sì, ma ho saldato bene, mia, oggi visto che le saldature te ne sono sempre già assenti. Ho saldato le saldature, sta tranquillo tu. Andiamo, beh, andiamo. Dai, dai. Riprendi il signor Marì. Sì, domani, appena sarà la campagna, sono salda, domani sera. Una volta che sale prima c'è luce, si controlla il capo, cavetto, e lui è a posto. Ehi, aspetta un attimino che voglio provare una cosa. La bacchi. Vedi, adesso sta riuscendo benissimo, va. Sì, ma forse Gianni non intende perché lo sopramoduli. Avanti, Bacchisio. No, si è spostato un attimo Gianni, Bacchisio. Avanti già. Ah no, pensavo che... No, io lo sento, a momenti, a Bacchi, a momenti, se non fosse a momenti, basso, tu... Deve essere come si sposta, che... Come al portante di mia mano che si sposta, capito? No, ha avuto un problema di cavi, capito? Un problema di cavi, adesso sta sistemando, adesso vediamo. Avanti, Luca! Eia. Io sono qua, sto dando un'occhiata al telefono, dai. C'è qualcosa di interessante, non c'è niente comunque. Non c'è nulla, avanti do. Andiamo bene, andiamo. E allora Mario, oggi cosa hai fatto? Travagliato su Manzano? Allora oggi è in zona, io alle 5.20 oggi è in zona, oggi c'avevamo Alpelli come sorvegliante. Ma oggi sono stato un po' di casotto, c'era poco di gente, stamattina presa in giro, di gente randaggia. Poi c'erano tutte quelle ragazze uscendo dal Paggi, dai locali. Niente imbriaghe, niente piscenti, boh, di tutto vero oggi. Già, da te. Oggi mi sono cubisato, un'ora più tardi me ne sono cubisato. Chissà fa cosa. Stai invecchiando, stai invecchiando. No, io mi alzo sempre. Devo andare a lavorare o no, sempre alle 3 di mattina mi alzo. Alle 3, il tempo di farmi la doccia, prendiamo un caffè e poi ci sto uscendo. Fresco. Bene, vediamo Gianni avanti. Ehi, su Manzano ho messo che ho bisogno che erano 7:30. Di solito mi alzo alle 6:30 a portare il cane, tra una cosa e l'altra, a farmi la barba. Sono le 8. Quindi oggi invece all'otto sono riuscito a pigliarmi un giornale. Io siccome faccio un lavoro in alzare presto, o quando devo andare presto, o nulla, o anche o devo lavorare, o no, sempre a quell'ora mi alzo. Adesso sto facendo le domeniche, sempre alle 3. Finisco, devo fare un'altra domenica e poi ho terminato per questo mese, no? Però anche se non devo andare a lavorare, io sempre alle 3 sono messo già la sveglia nella testa. Alle 3 mi alzo e ciccia, ormai sono già abituato. Beh, Otto, tu hai finito l'altra di presto, no? E poi dopo pranzo addormi. Ma dipende, se mi appoggio già dormo, se mi appoggio. Se invece lo fai, rimango sveglio, devo fare cosa, continuo, capito? Però molte volte, secondo me, mi siedo, ma dormendo da solo, Dopo io ho un piccolo problema. Io la notte uso macchinario perché vanno a Pennea e ho bisogno di dormire, hai capito? Ho bisogno molto di dormire. Molte volte dopo che ceno la sera prendo, dove faccio la doccia, mi appoggio e arriva Morfeo, già lo conosce Morfeo, il re del sonno. Una volta mi metto la maschera dormo subito e mi alzo sempre alla solita ora, sempre alle 3. Che oramai c'è la sveglia incorporata. Sì, ormai anche se no. Guarda, se non utilizzo la maschera quel macchinario mi alzo sempre alle 3, ma mi alzo oia. Tu lo sai quante volte quando utilizzo l'apparecchio salendo da qua, da San Giorgio, mi sono trovato quasi in cunetta. Vedi, vengo l'abbiocco del sonno. Dunque per quello cerco di utilizzare più possibile quel macchinario. Per poche parole non ossigena bene il sangue del cervello, ti alzi con l'abbiocco e mal di testa. Tutto qua. A quando passate mal di testa se ne parlava verso 9:30 e 10, figurati. Bene, avanti Luca. Aspetta, se un po' se mi ascolti. Ascolto, non dico bene, però ti ascolto. Avanti, Bacchi. Ehi, adesso hai filato con un cacciavite, mi tolgo la calza dentro. Va bene, la domanda lo facciamo. Basta che mi ascolti adesso. Oggi le ho controllate tutte. Le ho controllate tutte, le ho misurate, tutte hanno uno di stazionaria, esclusa l'antenna grande che ne ha 1,15. Io ti ascolto, ma c'è sempre il QRM, capito? Comunque già ti ascolto. Vediamo se Gianni ti ha ascoltato. Gianni, hai ascoltato, Pacchidio? L'ho ascoltato, ma tutto frusciato, tutto brrr, con QRM è più forte di lui. Pacchidio, Gianni, l'hai sentito? Pacchidio? No, non sento niente, neanche un led si accende. Nulla. Nulla, Gianni, non ti ha sentito. Vediamo se ti ha ascoltato. Vabbè, Tore, ti ascolto perché siete vicini. Avanti, To. Io lo sento, Ma tu sei vicino, vediamo Tore, anche Tore è vicino a lui, Tore avanti. Sì, se non la costruivo, chiatta, vieni bombi, vero signor Vacchi? Sì, apri la finestra e parliamo, Luca avanti. Sì, Gianni mi senti? Io sì. Tore, tu mi senti? Va Tore, va Marino. Sì, io ti sento, Luca, sì. È appoggiato sul divano qua, dai. Secondo me lo sposto non vi sento. Rimane così, ti ascolto benissimo, ma poc'anzi io nulla, sei sparito. Andiamo bene, andiamo, come dice Tore, avanti Tore. Bobo. Bobo. Ehi Mari, cosa stavi dicendo? Che a Luca lo sento benissimo adesso, ha detto che è appoggiato sul divano, lo ascolto fortissimo adesso. Ma da Edu. Sul divano, bubu. Dai, andiamo. E cosa stai facendo sul divano, Luca? Ma che bisogna da fare tutti e due? Bisogna di sopramodulati. E chi, io e Luca? No, tu e Gianni. Troppo forte Gianni, avanti già. Ma cosa vuoi? Io ho detto che anche io sono in orizzontale, che mi sono appena sdraiato a rilassarmi un po', che mi sono stancato. Stavo pulendo tutta la casa e mi sono fatto un bel mazzetto, là. Scusa già, qui arrivi sparato, eh? Arrivi sparato, proprio una bella modulazione. Perché non ti hai preso una filippina? Se vuoi te la mando io una filippina, domani. Una filippina? Oh, semmai una polacca che sono migliori. Beh, ma sono viziose, sono... e devi stare attento con quelle persone, già. Tu dimmi se vuoi una filippina, qui a Ciro Storico ce ne sono parecchi e fanno tutto, fanno la casa, tutto, fare tutto, da là alla zetta, fanno massaggi soprattutto. Così è, e già ne ho bisogno di massaggi, specialmente nel femore che mi fa zivare. Bene, quella che conosco io è molto brava, ti butta un po' di miele caldo addosso e poi ti massaggia tutto, e poi ti leccano logicamente, no, tutto. Ah, che bello. E io sono quello spamparanzato, così è. Allora, no, ti passo il dolore di tutto quanto, vero To? Faccia, non vedi baciare tutto, sennò ti viene tutto. Ti baciare se ti vedi la sifilide magari. No, non si vede nulla perché io c'ho il moto, c'ho la scossa delle canadali e l'autoclave, sono belle grosse. Ti usi una di quelle lì e sei apposta e sei protetto. Avanti, Bacchì. Ehi, di lusso, E se no ti dai quella che c'ho io in campagna, ma lì, della sfera che ne ho tolto. Esatto, se c'è problema ti do quella che c'ha Bacchisio giù. C'è una sfera che ha tolto e quella che c'è dall'interno è bella grossa, È una bella camera d'aria. Quella lì la usava Tore, la usava quando lavorava con me, vero To? No, che sarà, usi tu la usi, io non ne uso camera d'aria, la mia è libera. Esagerato, è libera. Ormai la tua è oioioia. Lasciamo perdere, va. Sei vecchio, To, sei vecchio. Avanti, Luca. Pensa baradoia. La mia è giovane, la mia è sempre giugazzata, lo devo dire io. Avanti, Luca. Mi sa che il più giovane sono qui, gli occhi. La mia è sempre in movimento, To, sempre in movimento. Luca, avanti. Ha giusto, mi sa che il più giovane sono qui, gli occhi, vero è Gianni? Mi sa di sì. Oh, anche io sono giovane, non sono vecchio. Ma il più vecchio è To, il più vecchio, io sono il più giovane. Ma che è Gianni? 50, 58? Cos'è Luca? Ah Gianni, ma tenia 58, così è. Io ne ho 60. Ah, 60 anni, 15 più di me ne hai, e io sapevo che sia nuda. Vabbè, ma sono sempre ardito. Tu, per figura di io. A me mi pare che vi pigliate tutti canti, un regi. Catta, non lo gioco io, va roba a chi? Il gioco che sono io qua, prego a tutti. Capito, 44. Quanto, ma chi? Non ti scordato, guarda lì. Non ho capito, 84 hai detto. 44, 44. Ah, 4 e 4, esatto. Esatto, 4 e 4. E poi c'è allora. Io ne faccio 43 e faccio al 22 marzo. Avanti, Luca. Ah, bravo, ma chi? Quello più grande io sono allora. 26 aprile 44. 16 aprile, dolce dormire. Hai sentito, ma chi, Giotto? Sì, poi c'è un padre, tutti e due, vivete 104 anni, tutti e due. Esagerato. La verità è più giovane sono io, Otto. E magari non ti puoi un regge balle, no, c'ero più giovane o no? Guarda, adesso mi sta lasciando una cosa, va, non voglio dire che sono cattivo, avanti Gianni. Oh, ya, state questo canale, ammettetemi un posto. È colpa di Tore già, è sempre colpa di Tore. Oh, sempre che ce la fate. Io che sa Dio ce la faccio, Tore non lo so. Ti penso a battere. E lei invece va a me. Non lo so, tu l'altro giorno mi hai chiesto una scatola di quelle pastiglie, ma lo te la scendo in settimana. Non lo so io. Calcolo le so, verde o azzurre. Ma gente che io no, perché c'è goccia non idrato. Hai compreso. Dove invece è idrato, non recimballo è idrato. E dove la pompetta come ti Berlusconi. Guarda già, l'altra volta sarà due... prima di Natale. Prima di Natale faccio un cestino in via università, ho trovato una busta, era dentro il cestino, ma una busta pulita. Tu non sai la roba che c'era dentro, ti puoi mani in capo. E c'era pure quella che c'era Berlusconi, più di una ce n'era. Siccome lì ci sono le persone a fianco che ci lavorano. E c'erano tre o quattro di quelle cose c'erano. Le volevo portare già a Tore, poi ho detto, ma poi Tore magari si offende e gliene porta solo una, vero Tore? No, non ve ne bisogno a me. Grazie a Dio funziona ancora. Quello lo dici tu se funziona o no, cosa ne so se funziona? Ah, domani mattina controllo a mio collega come fai i medicinali, le chiedo se ne sono rimaste un po' di quelle scatole. E poi domani mattina ci vediamo, allora esco te le porto. To. Avanti già. Ma oggi sto le mirate con te, qui. Lasciaro Billy, lasciaro. E allora. Non so cose che si dicono queste qua. Anche se uno non ce la fa, pazienza, cosa devi fare? Uia, c'è sempre da fare, dai. C'è sempre da fare. Luccariello. Così tipo Gabarroggi, che sente il ricordo. Ok. Suona il bisello. Perché lui ha bisogno di pompetta? Oh, io lo so manco come te è fatta, lo sai. L'ho sentito dire, però lo so rimanco come te, come ti funziona. Com'è che funziona, Otto? Ah, boh, lo so come anch'io, anche lo so manco come te è fatta. Ma io non lo so chi l'ha già vista. Ma io l'ho vista perché io la trovo in giro, non hai capito? È tipo quella che ti ho portato... che ti ho portato l'altro giorno, Otto, è la stessa. Con calma, Toro, ci vediamo, te la faccio vedere. No, dai, te la faccio vedere. Te la spiego. Il tuo papà è un tubo trasparente. Alla fine c'è un altro tubo sottile, dove attacchi la pompetta, tipo quella che si usa per la pressione. Invece, all'altra parte ci mette quella roba che non c'hai. E così via, pompi. Capito, Eto? No, non è cosa... chi so io, no? Mai vista, mai toccata, mai fatto nulla, a chi non ha mai visto, e non mi interessa, quindi, non so manco come sia. Va bene, riprende signor Bacchi. Così proprio, andava e andava, non lo so. cercando sempre di raccogliere le mani. Adesso mi viaggio brutto. Adesso va che non ti ha ascoltato, Tutto come lei mi ha ascoltato, va che? Io lo ascolto tutti. Piacenza, Marino, tieni un po' di Piacenza. Ok, un po' di pazienza, benissimo. Hai capito già, così funziona qua, questo qua è un canale porno, tutto dedicato a attore. Avanti, Luca. E tutti batteri ignori, no, che magari lo trattavi tu. Tutto bavagogna, è una cosa naturale dopo, scusa, Vabbè. Se no vuole l'aria compressa direttamente. Luca, tu basta, lasciamo perdere. Non vuole dire nulla. Avanti, Luca. Luca sta mangiando la focaccia. Avanti, to. Sì, ogni tanto anda a pulire la scemmosu. E se c'è un pezzo di ferro in bocca. Ah, che bello, niente i denti, buru. L'obiettivo deve diventare grande, compreso, va. Deve diventare grande il ragazzo, avanti già. Deve crescere Luca, no, ma adesso già sei un po' robustito. Quando l'ho conosciuto io era ragno, era ragno Barò. Adesso sei robustito un po'. E che l'hanno preso per la gola. Cosa vuol dire la pompetta, no Luca? No, rispondelo, maledetto. Sicuramente avrà la focaccia in bocca, vedi? La focaccia farcita col chiodo, vero to? Sicuramente sì. Sicuramente sì. Allora, sarò... io non posso parlare che c'è una ragazza in ascolto, là. Facciamo ragazzi seri in questo passaggio, là. Gigante! Bacchisio! Questo è il signor Bacchisio! E sta sistemando il cavetto, boh. Così è to. E oggi sei uscito, sì. Io dice bravo Durati. Gianni, tutto gassicato da. Chi, Bacchisio? Chi è stato? Oh, Marino. Non so se c'era Bacchisio sotto. Avanti, Bacchisio. No, signor Bacchisio. Mi prende già. Ehi, ehi. Ma, no, aspetta un attimino, che spengo. La ciabatta accesa mi entra dentro gli apparati. Perché fischia? Secondo acciaio fischia. Avanti, Tore. Sì, secondo che apparecchi sono, entrano assieme e fischiano. Ok, beh, sei uscito col cane, mi sei portato, Tore. Alle 5 l'ho portato, a Vassanutti, a Pussallo. Un'altra passeggiata, è bello come cane, molto affettuoso anche, dai. È un po' diffidente, secondo chi è, però è un bel cane. Sì, l'altra invece... Ma mi stava dicendo che si gira. L'altra lì ha pigliato a mosso il cane minoreddo, quello piccolino bianco, ha pigliato in bocca e l'era tutto... Se vuoi sta a correre l'era trattonendo. Vuol dire nervosa. Ma ha già partorito, sì? No, a marzo a partorire. Un cane da lecca, ciao. A Bordoglio, cane da caccia, un pochettino grande, è da caccia, e poi c'ho la lupa anche, che la lupa è in campagna però. Ogo, cos'è? Aspetta un attimo, Bacchi, no, è da coso, è incrociato con un dalmata e un altro, e un po'... tipo pointer da caccia, e non incrocio, però è veduascio. E vabbè, ci sono degli incroci che sono bene, sono meglio delle razze. E vedi la Marino, vedi, se no vedo, è forse burro, è poco dira. Aspetta, facciamo entrare il signor Bacchisio, avanti signor Bacchisio. Ehi, vediamo un po' se sono migliorato o peggiorato. Marino, mi ascolti adesso? Adesso sei a fianco a me, Bacchi, sei fortissimo, dai. E sono ritornato alla vecchia antenna, alla verticale. Ora mi hanno rimesso al barilotto e sono arrivato qua. Va benissimo, lascia così, non tocca nulla. Andavei. Solo qua c'è un po' di stazione, 1.17, 1.00. E vabbè, si può tollerare. E poi andiamo a fumo. Avanti, Tore. Buonasera. Tore. Aspetta che c'è stato un buonasera. Avanti il buonasera. Ehi. Antonio sono, buonasera a tutti, è un giorno che non vi sentivo. Sì, buonasera Antonio. Ti passo a Marino, se ti ascolta. Marino, Antonio, lo ascolti? No, non ascolto per nessuno, veramente. Avanti, Antonio. Attento, Marino, mi senti? Sto motorando, se io non ascolto. Signor Bombolo? Avanti. Chi è Antonio Bombolo, tu? Signor Antonio Bombolo, buonasera. Ciao, Marì. Ciao a Gianni, ciao a Bacchisio e ciao a Tore. Signor Bombolo! Ciao Giulio, buonasera. Allora già mi hai riconosciuto. Ciao tu, e beh, e papà come va, come va? Sto bene. Voi è un po' che non ci sentivamo adesso. Sì, tutto a posto, Antu, tutto a posto. Sì, e beh, da un bel po' di tempo adesso che senza sentirci, è vero. Non ti ho sentito più nemmeno in Cibitolco, vabbè, poco ci sto entrando io. E quando sto entrando, ascoltando più che altro, perché entrare proprio non entro. Ma ascolto, delle volte passo il canale, quello canalizzato, dai, dove appunto ci siamo incontrati qualche volta, ma non ti ho più sentito. Sì, un po' di e non stavo più entrando perché problemi, dici che stasera è accendo chi c'è? Sì Antu, in parecchi siamo stasera, quindi ci ascolti tutti quanti. Buonasera Giulio. Ehi, uia, andiamo, ve andiamo. Si prenda signor Marì. Andiamo, ve andiamo, male andiamo. Ciao Giulio, ben sentito, ben entrato. Antonio, mi dispiace, non ti ascolto, non ti ascolto. Ok, non so se tu mi stai ascoltando. Buonasera anche per te, avanti Bacchisio. Ehi, salutiamo Giulio, buonasera Giulio, ben entrato, salutissimi. Salutiamo anche Antonio Bombolo, vediamo un po' se Bombolo mi ascolta. Bombolo, mi ascolti? C'è a bomba qua, sì. Ne ho bombe, ho solo proiettili del calibro 22. Eh beh, essendo non molto lontani ti ascolta a bomba, ma ti ascolto anche a Marino. Purtroppo magari non mi ascolta che è ottava, cioè non lo so dove è di ottava. E a me Bombolo mi ascolti, buonasera. Buonasera, ti ascolto bene, forte e chiaro. Gappa gappa. Ciao Giulio, avanti. Ciao Gianni. E allora, oggi mi ha messo a riposo la nuova antenna. Se sono entrato non ha risposto nessuno, allora aspetta. Si è chiamato 5 volte io, non ce l'ha mai nessuno. Tutti assenti, tutti in giro. A rinfrescarsi le chiappe chiare, tutti quanti. Così è. Già va bene lo stesso, già lo credo, certo. Poi qua ci sono tutti a vicin gamba, per cui vale la pena fare compagnia, o meglio chiedere la loro compagnia. Ciao Bacchi, già vai, la Horizon senti inditi. Ma venitovi prima o poi abbassate a salutarmi. Oh, non bisogna mai abbassare. Va bene che io ci sono la mattina, tu la mattina sei in campagna, per cui il tempo non è compatibile il mio con il tuo. E no, giù, io l'altra mattina sono passato ed era chiuso, era mezzogiorno meno 20. Ed era chiuso, stavo scendendo la cortina cacca e adesso passo da Giulio, ci prendiamo l'aperitivo insieme e poi mi continuo. E invece Giulio se ne è aggiornato. È un attimino che mi sto sentendo. Hai trovato una giornata meno adatta, perché proprio mercoledì io ero di visita di controllo, per cui non ci potevo essere lì. E vedi, non mi ha lasciato il biglietto nella serranda, devo lasciarci il biglietto. Alla prossima sei punito, paga aperitivo, tutto. va bene, ma chi è? Rimandato il tutto. Bene, bene, ciao Tore, avanti. Ti ha sentato. Senza chiedere il permesso non si deve allontanare nessuno, se no multa. Mettiamo una multa a tutti. Avanti Antonio. Punimmo la multa, punimmo. A tutti. Ce lo credo, perché qui ognuno fa quello che le pare piace, ma quando è qua uno deve fare così, no, non va bene così, però Marino va bene così, bisogna chiedere il permesso e ci vuole la firma di tutti per fare il lascia passare. Purtroppo sono uscito un attimino, sono rientrato, eccomi qua. Bene va, vero signor Marì? Però è bene, non va bene Otto, qua è che l'autorizzazione, bisogna firmare. Tu sei, ti sei pieno, un culo al gioco, comunque io sono in questo momento, ne approfitto che mi sta chiamando mio nipote, ok? Ciao Giulio, ci sentiamo, ciao Gianni, ciao Antonio, ciao Luca, ciao Marchisio e ciao anche Ettore. Giulio riprende e faccio QRT, ci sentiamo domani se coincide, vai. Avanti Giulio. Ok, Marì, grazie per la chiacchieratina, dai, ci sentiamo le prossime, domani se coincide, ma penso che coinciderà anche domani, se Dio vuole. bene, avanti Gianni. Scusa un attimo già, ti chiedo scusa, Ottore, guarda, domani mattina quando esco dal tabacco ti porto la pompetta, eh. Ok Gianni, riprendi, ciao. Se te la metti nel QSO. Ciao Marì, ci sentiamo, dai, buona serata, a parte Dio. Ciao Marino, buona serata, ci sentiamo, domani. Se non la pure già ce la vogliamo, se la pure non ce la vogliamo più. Benissimo, ci posso, bombo, lo vuoi. Che immagine questa gente, eh? Caio dai, correggili tu, mettili tutti in linea retta. Salutone Marino, ci risentiamo alle prossime. Avanti, non mi ricordo chi adesso. Dai, riprendo io. Ciao Marino, ci sentiamo domani se tutto andrà bene, se no pazienza. Ok. Riprendi già. Ma perché si è sparito, Ma devo continuare a fare quello che... Oh, si è allontanato, Se non rispondo vuol dire che è sparito. Anche lui è di multa. Ah, questa volta paga, perché le avvertenze erano chiare. Dunque, questa volta lo facciamo pagare veramente. Bene va così, Tore. Dammi che sono sempre qua io, mi... Non mi calunniamo. Bobolino, Bobolino! Sì, come c'è Luca? Bobo! Dormi tassi, non ti fai accendo! Sì, dormi tassi! E Lu! E beh, tu! E beh, sto a posto! Dove sei, in zona? No, a casa sono! A bomba, Via Rubrino, via! Ciao Luca! Aiuto, mi sente? Riprendi tu, Tore. Sì, che ti sento. Ci siamo probabilmente soprammodolati. Ciao Luca, ho detto. Sì, ciao Giuda. Allora già mi senti anche tu. Avanti, Tore. Sì, andiamo rivenito. In cosa rivenito? In cucina. Io sono in relax, sono in cucina. Sono in soggiorno, dai. Sera. Sempre in cucina, Emmi. Sì. Tottino. Giulio, non tu mi senti, buonasera. Anche gli altri ti sentono, solo che stamattina non si hanno lavato bene le orecchie, è per quello, capito? Avanti, ma chi? Per Tino. Ehi, buonasera Tino, ben ascoltato. Arrivo a bomba, nessuno ascolta. E lì in campagna ha messo il baracchino sul fuoco a rostire. Ciao. Avanti Tino. Intanto, vero Bacchì? Ciao. Benissimo. Avanti, Tore. Signor Bacchì, caspita. Che già siamo andando bene, a punire un'altra ghigina. Fatti l'incarico. Andiamo bene, andiamo. Vai, a tu. Ma Antonio sta parlando, io non lo sento più. Che sta parlando? Deve essersi abbassato un pochino comunque. Anto, ti sei abbassato, non è che ti sei spostato, no? No, prova a vedere adesso. Adesso sei fortissimo. Deve essere come ti... mi sono spostato un attimino. Ho detto che è nata la ghigina, vivo carribona a mangiarmi. È sotto la cucina, avevo lo battato. Se volevo un burro battato. La zionda giù. Pure la zionda, che buono male, E venne bussia un bel. E chi sarà un cammino, è poco buona. È buona sì. Yeah. Allora Tino, riprendi. Fatte che sono in corrizia, sono entrato a suonare che sono al computer facendo una... che altro un'informazione che mi serve a me, dai. Benissimo, allora buon correggitino, siamo qua. Siamo ancora troppo, poi andiamo a mangiare. Tone, riprendetela. Mia, ogni tanto ci sentiamo. Avanti. Sì, così è. Magari ce ne fosse di carne, ma oggigiorno mi pare che poco bisogna farne. E va qua, qua. non lo so, no. Andiamo bene, andiamo. Avanti Giulio. Ok, to, sì. Adesso a parte gli scherzi, siccome di carne ne mangiamo sempre tutti quanti, in abbondanza anche, però io ho notato una cosa, ma da un bel po' di tempo però, che la carne è comprata anche in diversi posti, non è a dire che la compro sempre in un posto, non è più saporita come prima, non capisco come va, io non lo so Guga, prima io sentivo un altro sapore quando mangiavo la carne, oggi gira quasi quasi non mi piace più, perché ha perso quel sapore di una volta. A te cosa ti sembra tu? Sta arrivando dalla Cina, scusate. Sì, Mari, sta arrivando dalla Cina. No, bisogna ogni tanto cambiare posto di macelleria, perché, vabbè, arrivi tutto da un lungo, arrivi, quindi è tutta uguale. Io, quella che prendo io, molte volte non ha sapore di nulla, infatti. L'ho presa a macelleria vicina alle poste, quella lì mi sembrava buona, deve da sì, avrà regalato anche d'uno o anche pastori, Da su. Allora, quello vicino alle poste tu stai dicendo, da Gavinuccio, io una volta mia moglie ha preso la carne del cavallo da Gavinuccio, arrivata a casa, andavo da vicino a te, ci vuole i punti. La prendevo da Desove, guarda, era morto un burro, era sempre basso tre volte la carne nera, qualcosa c'è. In effetti da Desove stavo dicendo, da Desove via Renzi, c'è quel ragazzo, quel macellare che conosco, non vado, le ordino la carne, ma la perfetta, molto proprio bella pulita da quanta. Da Gavinuccio sempre nera la carne, non lo so perché. Avanti Giulio, scusa. Sai cos'è, ma deve essere che quel Gavinuccio la fa arrivare dall'Africa. Sono cavalli africani quelli, ma quello è che sono che è nera. Ma carità, no, non se ne capisce più, guarda, veramente. Ma io, la verità, dove la compro e non trovo più quella carne buona di una volta. Ho mangiato troppo, non lo so, ma comunque mi piace sempre. Però non te lo so dire. Le fettine barini e suore di coso pari mezzosuri, caro coso, alle botti. Una vergogna, non è possibile, senza sapore, carne proprio così. Finiti sono i tempi, ma un po' per tutto veramente, così lo stesso discorso vale anche per la verdura, non è più quella di una volta, no? Sul progresso, come diceva la gente, il progresso è anche un regresso. Avanti a tu. Guarda, noi l'abbiamo presa qua, la dolce da Cariggio, e ti dico che era buona la carne, chi si vive vicino a Varsanna? Sta appena più giù. Ah, ho capito, quella macelleria. No, lì non ci sono mai andato io, la verità. Non ci sono mai andato in quella macelleria. Anche perché è un po' fuori mano per me, vabbè che molto spesso passo, almeno se non altro 2-3 volte alla settimana ci passo, perché lì adesso nella bretella, per andare alla bretella ci sono i lavori che stanno facendo per la strada, no? E c'è quel semaforo Porsiccio così volante che quando ha cambiato il verde che poi tre quarti d'ora da poi gli autisti che sono ancora drumiti e allora passano due o tre macchine e le altre devono aspettare il nuovo ricambio del semaforo e allora sto passando lì direttamente da via Kennedy, lì sto passando e così faccio tutto il giro, faccio magari un chilometro, due chilometri in più, ma non me ne frega niente, ma almeno vado sempre spedito e basta. Va bene, dai, mi passo da nata da casa di Goso molto spesso, di Bacchisio. Avanti Bacchi, mi prendo lo semaforo. Così Giulio. No, tu devi pensare, è tutta roba sarda. Dice maialetto sardo, doc. Agnello sardo, doc. Li porto dalla Romania, le ammazzano in Sardegna e sono sardi. Ecco qua cos'è. Ah, così è, ah, già compreso, Insomma, lì gli animali zingari sono sardi. Poi Giuseppe. Gianni, ma ci sei sempre, te ne sei andato? E tu non ne mangi garri, Gianni così lenti. Cos'è ho pigliato la panzetta in e poi che era buono. Sto pensando alla pompetta, capita, non so chi, bobo. Vabbè, vuol dire che faccio da fa. Vai Tore. Bisogna. No, invece la grande due che ti fa. Che verranno i carabinieri con la finanza al porto, il produttore ci diranno agitendi il gambio, come ti sono farà di hanno sequestrato tutto che venivano dalla Romania venivano. O tu gambi hanno sequestrato. Ah intendi, per allegria mi bubu. E la buona aveva tu, 20 chilometri, aveva fatto le bestie che hanno portato così. Vero, ma chi? Sì, una volta che arrivo nel mattatoio a Ozieri, sono sardi. Vengono, viaggiano, vanno nella mattatoio, i calzini chi mi mangiano la ghetta. Se diventano sardi, perché li fanno lascia passare? Ti ho compreso, quando hanno fuori di via, hanno ragione, hanno anche loro il diritto di diventare sardi. Avanti Antonio. Già vega che cosa Burino che già ci è rimasto ben poco, ma anche la carne allevata in Sardegna già c'è, ma ci è rimasto ben poco sì, perché qua tutte le bestie sono state bruciate dagli incendi che ci sono stati in Sardegna e allora ancora non c'è una grande popolazione di animali, per cui roba sarda ce n'è poca, ma forse qualcosa alla piazzetta c'è, di sardo, qualche cosa alla piazzetta. Sì, già bisogna ce l'è di rimanere a Garribona, certo costa un pochettino di più la roba, come si deve. Non vedi niente l'ompia, E giù, lo sai cos'è? Che non sono neanche donne più sarde, sono tutte rumene. Dunque venite tu, stecca un poco, puoi andare a Garri. Questa deve me l'uomini ormai è sardo, non per più nessuno, tutta roba accolita. Sì, è vero. Scusate la tosse. Sì, è probabilmente questo mio. Ma allora gli unici sardi siamo rimasti noi, la compagnia CP di Sassari e basta, tutti gli altri sono diventati stranieri. Tutta roba accudita, tutta roba che arrivi da fuori, roba estera, tole, riprenditela. Sì, fai un metteghido, di cosa l'ha detto, ma non è che potevi mandare a ciappare che femmina a Sassa. Prova a mandare a Itria a vedere, eppure a Itria perché c'è la Romania a Udo. Ma tutto questo bordello state facendo? Mi un altro sardo, questo è autentico, questo è stato autentico. Ciao Fra. Buonasera a tutti. Ciao Giulio, Tore e tutti gli altri che non ascolto, perché siete voi due solo. Comunque non so se mi sentono loro. Avanti Giulio. Se lo sentono a te vuol dire non ti vogliono sentire, guarda, te lo stanno facendo per dispetto. Chi non ti sente lo, vuol dire lo sta facendo apposta. Vuol dire che non ti può vedere. Sto scherzando, Flavio. Già ti sentono, arriva a bomba, no, che cosa? Hai dovuto abbassare il volume, mi stavi ammazzando, mi sapi. Capita, adesso lo dico a Marino, vai solo per quello, vai Marì. Ma Franco è come si a fianco a me, è seduto a fianco a me Franco. Arriva proprio sparato. Ciao Franco, ben sentito, avanti. Ciao Marino. Tu sì, ma arriva con lo scala. E dunque siamo 1-1, dai. Avanti, oh! Porte per chiudere invece ancora, non è ancora sceso da sopra. Comunque, avanti, va chi? Ehi, ehi, salutiamo Franco, buonasera, ben ascoltato. Dai, io ci arriverò piccolo piccolo, ma già mi ascolta, così è Franco. Mi sa che non ti ascolta Bacchì, ciao Franco, mi sa che non ti ascolta, Fra lo ascolti a Bacchisio. Ciao Tore, me l'ha ascoltato, no, non ascolto Bacchisio, non lo sento per niente, a nessun altro sento. No, lui, tu mi arrivi a bomba qua giù. Vediamo se senti Antonio Bombolo, prova a vedere se ti sente Franco, da sorso, vai, Antu. Attento Franco da Sorso, mi senti? Io qua lo sento benissimo. Fra, ma sono sentiti anche a Franco, hai qualche problema a tu? Buonasera. Infatti, vabbè. Allora Tino, ti mando avanti il signor Franco di Sorso con una radio ultra potente che ho dovuto abbassare il volume quando parla lui, se non me ne pacchetti da Lecci. L'orecchio ho detto mi. Avanti Tino. Non lo so se a me mi sente Franco. Franco? Sì, e ti sento Tino, abbastanza. Pensavo, no, perché ho l'antenna al contrario di per te. No, arrivi benissimo, Rich. Va bene, ciao Tino, me l'ho ascoltato anche a te. Attento, Franco di Sorso. Franco, sta chiamando Antonio. No, negativo, non lo sentono. Ti tenga a bombe, no. Vabbè, continuate, dai, ciao Franco, ciao, sono andato a salutarti. Ciao, ciao Tino. Va bene, vuol dire, a Antonio non si è riuscito ad ascoltarlo, e se è dentro casa anche lui, vuol dire che ha una posizione un pochino non molto buona, insomma, verso te, Fra. Va bene, comunque, ti ha salutato, dai, ti ha salutato. Lui già ti sente ad ogni modo, Franco. Ehi, capo. E noi ci sentiamo perché siamo un tiro di schioppo, siamo vicini, non è per quello. Gli altri magari perché sono tutta un'altra zona più negativa. Ma cosa, sono più vicino io a te. Ha risposto Antonio, ha detto no, dice sono più vicino io a te, ma ha ragione. E sono tutti lì, sono tutti nella zona. Tore, Bacchisio, Antonio, Luca quando parla. Dunque, a parte me e Tino che siamo i più lontani, anche se Tino è a sud e io sono a nord. Vero Tino? Ehi Giulio, sì. Allora potete fare la guerra con la nord e sud. E allora, guerra noi non ne facciamo mai. Siamo gente di pace, per cui niente da fare guerra. Avanti Bacchi, fate sentire anche tu. Ehi, vediamo un po' se mi ascolto adesso. Adesso mi ascolti Franco. Ok, ci risentiamo alle prossime. Salutoni Tino, salutoni a te Giulio, salutoni a tutti, adesso non mi ricordo tutti i nomi. Bacchi negativo, non ti ascolta Franco, eh? Non ti ascolta, nulla, 0.0, Bacchi. Non arrivo da te, Marì. Antonio che sta chiudendo. Ciao Antu, grazie per essere entrato a chiacchierare con noi. Fatti sentire però, guarda che la sera, forse tu stai lavorando ancora a quell'ora. No, ti volevo dire che la sera siamo in 27, ma a quell'ora probabilmente stai ancora lavorando, perché noi chiudiamo intorno alle 8, 8 e 10, 8 e un quarto, insomma, più o meno a quell'ora. Va bene, ciao comunque a tu, grazie ancora per la chiacchieratina. E salutami a Pierpaolo. e di tanto in tanto, ripeto, io su CB Talk passo per vedere se ci siete, ma non mi siete più, non vi ho più sentito. Ok, Antu, riprendi per quest'altro saluto e poi chiudo, poi puoi chiudere, vai. Con nostro permesso, ricordati, stai chiudendo, con nostro permesso. Avanti Antu. Ehi, K, dai, salutone a tutti, dai. Ti ricordo anche lui. Ciao ciao, ci risentiamo alle prossime, ciao a tutti. Ok, ciao di nuovo Antu, ciao, alle prossime, faccio girare. Avanti Tone. Ciao Antu, stammi bene. Alle prossime, ok. Che prendi Bacchi? E io vediamo un po' se le cose vanno meglio. Ciao Antonio, buona serata, buon QRT, buon tutto. A risentirci ancora. Giulio, adesso migliorato o peggiorato? Ma io ti sento sempre bene, un po' più basso del radio, però ti sento sempre ugualmente bene, i problemi non ce ne sono. Diciamo che solo inizialmente, proprio nel momento che sono entrato, non ti sentivo molto bene, eri molto querelmato, ma adesso ti sento abbastanza chiaro, anche se rispetto a un momento fa la radio è un pochino più bassa, però va ugualmente bene per me. Ok, vediamo piuttosto se ti sente Franco, perché forse il problema sarà con lui nell'ascoltarti. Avanti Fra. Franco? Marino, mi senti ancora? La batteria deve essere finita. Marino, mi senti? Certo, ti sento. Io sinceramente non sentivo Antonio negativo, 0.0, sto utilizzando 40, ma neanche lei si accendeva, figurati. Avanti giù. Ok, no, io ti sento fortissimo, io lo sai, vabbè, noi siamo vicini, dunque è per quello che va benissimo. Ma gli altri non rispondeva. Avevo pensato che avessi la batteria con la batteria scarica. No, io sto utilizzando la quarantena, la direttiva che mi ha regalato tu, e va bene, so che Antonio negativo non ascoltavo 0.0. Vediamo se Franco è entrato. Franco? Cappa che ti ascolto. Aspetta, come mai non ascolto più a Giulio? Giulio? Franco, forse una batteria scarica, è per quello. Diglielo tu Maria eventualmente. Ma Fra, siccome c'ha la batteria scarica a Giulio, avanti. Ah no, adesso l'ho tirato fuori. Ero io che ho schiacciato una cosa e non lo sentivo più. Ok, vediamo se riesci a ascoltare nuovamente a Bacchisio, si è migliorato. Bacchisio, avanti per Franco. Ehi, vediamo un po' se Franco ci arriva da sorso, se no bisogna che ci vada in macchina. Avanti Fra, si è ascoltato. Franco ha chiuso. No, negativo Bacchisio, non ti sente, no, non ti sente Franco. Franco non ha ascoltato la Bacchisio, no? No, negativo. No, negativo Bacchisio, nulla, niente da fare. Non arrivi a sorso, sicuramente guarda, ti conviene prendere la macchina e andare direttamente in macchina. Forse arriverà anche da su, avanti Bacchi. Ehi, bisogna che ci vada in macchina per poter ascoltare. Bene Meda, ma è questione di batterie qua, vedo che si sta calando di livello. Sta calando. Anda bene Meda. No, a Giulio volevo chiedere, Giulio, l'inglese tu lo mastichi? No, nemmeno fischiare al suo, no Bacchi, no. Dai, io non ho batteria, si sta spegnendo quasi completamente lo smitter, per cui non ho batteria, dai, vi saluto tutti prima che non mi ascoltate più. Ciao Marino, Bacchisio, Ottore, Antonio se sia ancora all'ascolto, Gianni se sia all'ascolto, e quanti ce ne sono, Tino, e poi chi c'era, Franco da Sorso. Salutoni a tutti, dai, io chiudo perché non ho più batteria, vai, ok? Vediamo un po' se riesco a ascoltare fino a Lino, comunque se no ci sentiamo domani. Ciao, riprendi pure Maria. D'accordo, guarda, se devi passare a ritirare le buste, quelle buste che tu sai, questo mese di gennaio puoi andare mattina e sera, tu ogni giorno, questo mese di gennaio, invece da febbraio ritornerà nuovamente solo il mercoledì. Ok, ciao Giulio, ben sentito, sono tornato in casa, a domani se concilia, avanti Tore per saluti a Giulio. Ok, ciao Giulio, ci sentiamo alle prossime. E prendi Bacchi. Io riprendo io per salutare Giulio. Ciao Giulio, buona serata, buon coso, buona cena, buon tutto. Se concilia ce la vediamo e ci sentiamo ancora. Bene, io ne approfitto anche del micro per salutarvi e passare in QRT perché la batteria sta andando in una mala. A calato di livello. Bene, ciao Tore, buona serata, buonasera Marino, buonasera anche agli amici che sono all'ascolto, Bacchisio vi saluta, vi auguro ancora buon questione. Ascolto Fidalino e chiudo, vai Marino. Sì, prendo io, ciao Bacchisio, domani se coincide sono già, ci vediamo, adesso lancio tutto a Franco di Sorso per i saluti a Giulio e Bacchisio. Avanti Fra. Ehi, dai, ciao Giulio. Saluto anche a voi, dai, saluto perché mi stacco da qua. Ci sentiamo tutte le prossimine. Saluto anche tutti gli altri che non sento, non so che ci siano veramente tutti. E via. Ciao Marì, ci sentiamo. Ciao anche a te Giulio. Giulio, se attacchi l'altra va bene. Ciao Giulio, riprendo io, ciao Bacchisio. E per un info a Marino. Come è che non ho capito, ti ho detto? Un info mi serve. Mi stavi dicendo che ritorno a mercoledì al prossimo mese la distribuzione. Oh, ciao, ti scuso, ti stavo riconoscendo. Allora, se vai questo mese qui, gennaio, le prenderai ogni giorno, dalla mattina alla sera, questo è il mese di gennaio. Invece da febbraio è nuovamente il mercoledì, capito? Ah, grazie, avevo sentito bene allora, ti ringrazio, va bene. Rimando ormai che è entrato Gianni, se non mi sbaglio, Gianni. Sì, non si sbagli, sono stato a salutare a Giulio, dai. Sono, ciao Tino, comunque, perché mi sono cancellato. Sono stato a salutare Giulio. Ehi, Gianni, ciao, riprendi. Sono in corso, ho sentito giusto a Marino dicendo questa informazione, allora sono intervenuto. Ok, riprendo io, così chiudo, dai, direttamente. Ciao, ciao Tino, ben sentito, ciao Gianni. Ciao Franco, ciao Tore, ciao Bacchisio, ciao Antonio, ciao Tore, insomma, ciao Tore a tutti, anch'io faccio quelle di avanti Tore, ciao. Sì, ciao Bacchisio, ciao Marino, statemi bene, ok, io ne approfitto che mi devo impulsare. Ci sentiamo alle prossime ragazzi, saluto a tutti quanti, ok, ciao a tutti, ciao Gianni, ciao Franco, ciao Antonio e ciao a tutti quanti gli altri. Ok, Tom, scusa, un'informazione, non sbagliare, devo stare la pompetta si mette a sinistra, non a destra. Ok, a domani Tom, ciao. Sì, tira poi, ciao, a destra che a sinistra, ciao Marino. Vedi che esperto, come lo sa. Ciao. Che buon gustaio e siete, maledizione. Ciao, a domani, ciao. Chi è arrivato? Non sento nessuno. Buonasera. E chi è 602? Ciao Cristian, ti sento basso. Stava gente, Cristian, ti sento malissimo. Mi trovo solo a Buzzi. Cristian. Non sento più. Ma che è il processo?